Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Insomma, al di là della qualità, diciamo, Canora, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questi pensate che sono prima della partita che è in corso, iniziata da pochissimo in Francia tra Italia e Belgio, sono insieme i tifosi italiani e belgi che cantano insieme l'inno italiano. Non è una cosa da poco, è in una partita che alla vigilia praticamente, pochi minuti, poche ore dalla partita, questo fair play tra tifosi di squadre che sono in questo momento avversarie. No, magari fossero tutti gli ambiti così, a partire dallo stesso calcio. Vi ricordo tra poco le notizie principali, il riassunto della giornata come sempre, ma ritornando ovviamente tra poco anche sulla strage di Orlando, quello che vi voglio chiedere è: secondo voi il killer, che era già noto all'FBI, ha potuto, sapete, acquistare con molta facilità, armarsi fino ai denti, acquistare un fucile da guerra addirittura, con questo che ha fatto la strage, ha ucciso 49 persone, secondo voi sarebbe necessaria negli Stati Uniti una stretta, un giro di vite sulla accessibilità così facile alle armi, oppure secondo voi in un paese così complesso non servirebbe a nulla? Tra l'altro è di questi istanti un'agenzia, una nuova dichiarazione di Trump, candidato repubblicano alla Casa Bianca, che dice: siamo in un'era di terrore, bisogna dare agli americani i mezzi per difendersi. Quindi diciamo ci sono opposte visioni. Da una parte Hillary Clinton, che dice insieme a Obama, sapete che è una battaglia questa di Obama, di cercare di imporre un maggior controllo sull'acquisto di armi, e dall'altra parte Trump, che invece cavalca, diciamo, questa vicenda. Voi che cosa ne pensate? 349-238-6666 è il numero per i WhatsApp e gli SMS per dire la vostra opinione, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra l'altro, un'altra domanda da porsi: è possibile, visto che dicono che questo killer affiliato all'ISIS oppure no, psicopatico oppure no, sia, diciamo, il detonatore sia stato per lui psicologico di aver visto due uomini che si baciavano, questa cosa l'ha fatto impazzire, ha deciso che doveva fare questa strage, è possibile secondo voi che un bacio tra due persone che si amano, o almeno si piacciono, debba scatenare questa efferata violenza? Voi scrivete i vostri messaggi, io intanto, siccome ho tantissime cose da raccontare e non ultima la partita che è in corso, vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. La strage di Orlando, secondo il presidente americano Obama, è frutto di estremismo interno, giallo sul fuoco amico. Brexit, le piazze europee scontano ancora i timori per l'uscita, la possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, oggi un'altra seduta in calo, intanto i britannici anti-Europa nei sondaggi passano in vantaggio. Consob, botta e risposta tra Calenda e Vegas, errori gravi, dice il ministro, pressioni dal governo, risponde il presidente della Consob. Indagine sul trasporto locale, secondo l'antitrust è scadente e c'è poca concorrenza in Italia. L'omicidio di Melania, la Cassazione conferma i 20 anni di carcere per Parolisi. Tecnologia, polemica sul primo robot in grado di ferire gli esseri umani e Microsoft acquista LinkedIn. Calcio a Euro 2016, la Spagna batte la Repubblica Ceca 1-0, Irlanda-Svezia finisce 1-1 e stasera partita d'esordio per l'Italia contro il Belgio, che è già iniziata. E allora direi di iniziare proprio da lì, dalla partita iniziata, con il nostro Dario Ricci, che è proprio in Francia a seguire gli Euro 2016, in particolare la partita italiana. Monsieur Dario, bonsoir. Mademoiselle Giordano, bonsoir dallo Stade de Lumière di Lyon. Sesto minuto di gioco, 0-0 tra Belgio e Italia. Una buona Italia questa in questi primissimi minuti. C'è stata una conclusione debole al quarto minuto di Eder, bloccata facilmente dal portiere belga Courtois, poi al quinto minuto il cross radente di Candreva, la respinta della difesa belga. Belgi che si sono superiori e già lo stanno mostrando nella qualità del palleggio, gli azzurri hanno sbagliato 2-3 aperture in modo abbastanza grossolano, ma l'Italia c'è, molto attenta, raccolta intorno alla difesa della Juventus, il suo capitano Buffon sta provando a guadagnare metri e fiducia. Siamo al settimo di gioco in questo istante, Roberta, 0-0 a Lione tra Belgio e Italia. Dario, rimani un attimo, perché prima sentivo l'inno italiano, non quello cantato dai tifosi ma dalla nostra squadra prima dell'inizio della partita, ho sentito una leggera stonatura e ho pensato, non vedendo la partita, ho detto questo mi è sembrato Buffon, e un collega mi ha confermato, è vero che lui che è un po' stonato Dario? Eh beh, ci sta, tante volte all'emozione, però ti sottolineo proprio a proposito degli inni, e a proposito di quello che dicevi in apertura, proprio il bellissimo applauso della curva belga proprio all'inno italiano, che è stato tutto in cadenzare il ritmo dell'inno di Mameli con un lungo applauso ritmato, è stato un gesto molto bello sì. Ho apprezzato particolarmente. Grazie Dario Ricci, ci sentiamo dopo naturalmente per aggiornamenti man mano di come andrà la partita. Invece noi ci spostiamo su cose molto molto meno amene, sugli sviluppi relativi alla strage di Orlando in Florida. Il presidente degli Stati Uniti Obama ha parlato di estremismo di casa nostra, ha detto, ed è tornato sul dibattito relativo alle armi facilmente accessibili. Si tratta di estremismo cresciuto entro i confini nazionali. Così il presidente americano Barack Obama all'indomani della strage di Orlando. Non c'è nessuna prova, ha aggiunto Obama, che Mattina abbia fatto parte di un complotto più ampio. La sua è una fedeltà all'ISIS proclamata last minute, ispirato apparentemente da diverse fonti estremiste su internet. E questo andrebbe proprio nella direzione che ha indicato oggi il procuratore federale. Domenica, ha detto, è stato fermato per un interrogatorio un predicatore, Marcus Dwayne Robertson, convertito all'Islam radicale, che predicava su internet. A quanto pare Mattin si era iscritto a un suo corso online. Il presidente degli Stati Uniti ha posto poi l'accento più volte sui controlli circa la circolazione delle armi da fuoco in America. Inquietante poi l'ipotesi del fuoco amico avanzata dal New York Times, secondo il quale non è ancora chiaro quante delle 49 vittime siano state uccise da Mateen e quante potrebbero essere invece state uccise dalla polizia preoccupata che il killer avesse con sé dell'esplosivo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ci torniamo collegandoci direttamente con gli Stati Uniti sui dettagli delle indagini, sulle polemiche, anche appunto quelle relative al tema delle armi e anche al terrorismo. Intanto vi chiedo appunto per i vostri messaggi al 349-238-6666, che è per gli sms e whatsapp, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che per voi lì comodamente giorno e notte, di scrivere se secondo voi sarebbe necessaria per evitare tutte queste morti un giro di vite sull'accessibilità delle armi negli Stati Uniti, oppure se secondo voi invece andrebbe, come dice Trump, che è dichiarazione di poco fa, andrebbe data a tutti gli americani la possibilità di difendersi e i mezzi per difendersi. Ma chi erano le vittime del club gay di Orlando? Sentiamo il racconto di Giuseppe Luongo. Sono chiuso nel bagno, sta avvenendo qui, sto per morire. È l'ultimo messaggio inviato da Eddie Justice alla madre. Eddie aveva 30 anni. Come lui, tanti giovani erano andati al Pulse per divertirsi dopo una settimana di studio o lavoro. Prima di arrivare al locale, Stanley, che aveva 24 anni e lavorava in una farmacia, aveva postato su Snapchat un video in cui cantava e scherzava con i suoi amici. Il profilo Instagram di Juan era pieno di foto scattate con il suo compagno, Christopher, di cui non si hanno notizie. Il movimento di alleanza tra omosessuali ed etero, fondato al liceo, gli era valso il premio umanitario Anna Frank. Luis aveva 22 anni e lavorava al parco divertimenti Universal, nel settore dedicato a Harry Potter. Anche la scrittrice J.K. Rowling ha ricordato la scomparsa, forse per quella foto postata su internet con indosso la divisa della scuola di Hogwarts. Queste sono solo alcune delle storie interrotte bruscamente sabato sera dal killer di Orlando, tanto lucido nell'eseguire il suo piano quanto accecato dall'odio nel progettarlo. Giuseppe Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra l'altro vedevo adesso che ci sono manifestazioni, a parte Orlando c'è una bellissima marcia di solidarietà, e poi ho letto anche che sono stati raccolti in poche ore $1 milione per le famiglie delle vittime, e anche a Napoli candele e nomi nel ricordo delle vittime in cento davanti al consolato americano. Sono bellissime iniziative queste, che dimostrano che c'è anche un mondo migliore, che c'è un mondo che reagisce oltre che un mondo migliore. Siamo però alle borse, questioni molto pragmatiche. Giornata negativa per le piazze europee, influenzate non tanto dai fatti di cronaca quanto ancora dai timori legati alla possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, la cosiddetta Brexit. A 10 giorni dal referendum che deciderà la permanenza o meno della Gran Bretagna nell'Unione Europea, i mercati finanziari mostrano per intero la loro preoccupazione, disorientate oltre che dall'incognita Brexit anche dalle incertezze in vista delle riunioni della Fed e della Bank of Japan nei prossimi giorni. Le prime a crollare sono le borse asiatiche, che archiviano la peggior seduta d'aprile, meno 3,5% per Tokyo, meno 3,2% per Shanghai. Il profondo rosso contagia l'Europa, che segna pesanti ribassi sin da inizio seduta. Alla fine l'unica a limitare i danni è Londra, che cede lo 0,92%, Parigi invece lascia sul terreno l'1,85%, Francoforte l'1,80%. Milano, la peggiore, chiude in ribasso del 2,91% ai minimi da febbraio e depressa dai titoli bancari e da quelli petroliferi che scontano la nuova seduta di debolezza del greggio. A Piazza Affari raffica di sospensioni nel comparto bancario con Banco Popolare e BPM che alla fine indossano la maglia nera, chiudendo rispettivamente a meno 10% e a meno 9,9%. La corsa ai beni rifugio porta ancora in rialzo le quotazioni dell'oro che stanno segnando i massimi delle ultime tre settimane. Sul fronte dei cambi, la sterlina perde altro terreno sulle principali divise, in particolare sono necessari 1,425 dollari per un pound e 0,7919 sterline per un euro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto il giornale britannico The Guardian online riferisce che gli anti Unione Europea passano in Gran Bretagna in testa, sono al 52% contro il 48% nella media giornata di tutti i sondaggi condotti in Gran Bretagna in vista appunto del referendum che si terrà in Gran Bretagna il 23 giugno, quindi tra pochissimi giorni. Dal 17 poi comincerà il viaggio di Radio 24 nella Brexit, appuntamento dal giornale radio del mattino. Siamo alla politica italiana che oggi registra gli interventi del ministro Calenda a Radio 24, affermazioni che hanno riguardato la contrattazione e l'operato della Consob, che è l'organismo di controllo della borsa. Una polemica quella che chiama in causa la Consob, che ha sullo sfondo le conseguenze su azionisti e risparmiatori dei salvataggi delle quattro banche e le vicende societarie dei principali istituti veneti. Nel già fitto scambio di dichiarazioni tra Report e Vegas sull'effettivo ruolo della Consob in termini di vigilanza sui prodotti finanziari si inserisce allora il ministro dello sviluppo economico Calenda, che interviene così a Mix 24. Deve dimettersi il presidente Vegas. Non credo che stia al governo dire commentare sulle istituzioni indipendenti, però... Detto questo, degli errori gravi sono stati fatti. Cioè, il report della Gabanelli ha ragione o no? Ha ragione. Prendo atto delle pressioni del governo da notizie infondate, replica però il presidente della Consob Vegas. Nel suo intervento a Radio 24 da Giovanni Minoli, il ministro Calenda parla quindi dei contratti. Facciano presto, dice a Confindustria e sindacati. L'auspicio del ministro è condivisibile, commenta il leader degli industriali Boccia. Stiamo definendo una data, a breve diciamo lo faremo, sarà un primo incontro di, come dire, conoscenza e anche di confronto su alcuni aspetti. Siamo pronti a fare la nostra parte. Parte commenta dalla CISL Furlan, abbiamo bisogno, aggiunge, di un modello complessivo di sviluppo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E domani mattina a Milano Silvio Berlusconi si sottoporrà all'intervento al cuore per sostituire la valvola aortica. E poi questa notizia che riguarda il nostro gruppo, Gabriele Del Torchio è stato nominato nuovo amministratore delegato del gruppo Sole 24 Ore. Del Torchio assume l'incarico a partire da oggi e al nuovo amministratore delegato sono stati conferiti pieni poteri di gestione della società. A proposito del Sole 24 Ore, vi ricordo che da domani prende il via una nuova iniziativa che si intitola L'economia per la famiglia, per spiegare in termini comprensibili un po' tutti i temi dell'attualità economica e finanziaria. Si tratta di una raccolta di quaderni, di libricini, nei quali ogni martedì e ogni mercoledì, quindi a partire già da domani, con il Sole in edicola, trovate questi quadernini che trattano questi grandi temi che influenzano la nostra quotidianità. Quante volte, per esempio, vi capita di sentir parlare di deflazione e magari di chiedervi che cos'è la deflazione e perché, se si abbassano i prezzi, invece vista come un fenomeno negativo, e che cosa significa inflazione e perché invece da più parti è auspicata l'inflazione. Insomma, per capire qualcosa di più, questi libricini ogni martedì e ogni mercoledì col Sole 24 Ore a partire da domani. E poi c'è l'indagine sul trasporto locale. Secondo l'Antitrust, l'autorità garante della concorrenza, è scadente. In Italia c'è poca concorrenza. È la seconda voce di spesa per le regioni dopo la sanità. La vendita di biglietti copre poco anche a causa dell'evasione tariffaria. E poi c'è l'anzianità dei mezzi, che è molto alta, in aumento, e 110.000 addetti per 14 milioni di persone. Estero, una forza di 4.000 soldati della NATO sarà dispiegata nei prossimi mesi ai confini tra le Repubbliche Baltiche e la Russia, lo annuncia il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg in un comunicato ufficiale. E parliamo di donne in ricerca. L'Italia è il paese europeo, pensate, con più pregiudizi nei confronti delle donne nella ricerca. Addirittura 7 italiani su 10 sostengono che le donne non possiedono la capacità necessaria per accedere a occupazioni di alto livello in ambito scientifico. A dirlo è un'indagine europea condotta dalla Fondazione L'Oréal, che per abbattere questi preconcetti ha lanciato insieme all'UNESCO il manifesto For Women in Science, sottoscritto oggi anche dalla Ministra per l'Istruzione e l'Università Stefania Giannini. La presenza del genere femminile nella ricerca italiana segue un andamento a piramide, sottolinea la Ministra. Alla base vediamo che le ragazze rappresentano più del 50% degli studenti, ma poi la percentuale si assottiglia inesorabilmente, le disparità crescono man mano che si avanza verso posti di responsabilità e potere decisionale. tanto per cambiare. La cronaca: è stata confermata dalla Cassazione la condanna a 20 anni per Salvatore Parolisi, il militare accusato di aver ucciso la moglie Melania in un bosco del Teramano dove la donna era scomparsa l'11 aprile del 2011. Quindi il ricorso di Parolisi contro la condanna ridotta nell'appello bis è stato rigettato, come aveva chiesto stamani la Procura della Cassazione, quindi la condanna a 20 anni ora è definitiva. Tecnologia: operazione da 26 miliardi di dollari, la Microsoft compra LinkedIn, e poi la polemica sul primo robot in grado di ferire gli esseri umani. Di questi argomenti parleremo poi nel corso qui di Effetto Notte. Vi voglio parlare anche di galline, perché d'ora in poi non si potrà più dire cervello di gallina come insulto. Il suo, come quello degli altri uccelli, pur se piccolo, contiene, il cervello della gallina, infatti, un numero di neuroni, pensate, superiore a quello di mammiferi e di alcune specie di primati. Lo spiegano i ricercatori della Vanderbilt University sulla rivista dell'Accademia Americana di Scienze. Ecco perché, nonostante le minuscole dimensioni cerebrali, questi animali sanno svolgere compiti cognitivi molto complessi. E poi diciamo che, per chiudere, guardiamo i risultati: Italia-Belgio per il momento 0-0, molto tondo questo risultato al momento, poi man mano ci aggiorniamo. Invece, prima di aggiornare chi sta viaggiando, volevo leggere i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, almeno qualcuno è su WhatsApp, e al 349-238-6666. A proposito della strage di Orlando, vi chiedo, si riapre la polemica sulle armi troppo facilmente accessibili e acquistabili negli Stati Uniti. Secondo voi sarebbe necessaria una stretta o, come dice Trump, ha dichiarato anche poco fa, bisogna dare agli americani la possibilità di difendersi e gli strumenti necessari? Cristiano scrive: accedere con facilità strabiliante all'acquisto di ogni arma possibile è una follia sconsiderata, ma una stretta severa cambierebbe pochissimo. L'arma è come una sola cosa con la persona in moltissimi territori americani. Corrado: beh, basterebbe immaginare cosa succederebbe qui da noi se chiunque potesse comprarsi armi come andare dal tabaccaio. Primo litigio per la viabilità, bang bang, in effetti. E poi dice quest'altro ascoltatore: credo che sia giusto dare a tutte le persone sane del mondo la possibilità di armarsi per sport, hobby o difesa. E dice, vediamo, apro questo WhatsApp per leggere il seguito: ma lo scarso controllo su chi chiede e detiene un porto d'armi ad essere la vera causa, e lo dico dopo 8 anni di lavoro in un poligono di tiro a Firenze. Ah, è Paola che scrive questo messaggio. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte a rispondere a questa mia domanda, oppure al 349-238-6666. Tra poco cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, lo sapete, tutte le sere andiamo avanti fino alle 22 qui Effetto Notte con le notizie più importanti e poi approfondimenti su vari argomenti, alcuni argomenti in particolare. Adesso cominceremo a trattare quello relativo alla strage di Orlando, con gli sviluppi delle indagini, poi anche magari un'analisi più ampia di quali possono essere le cause. Adesso ancora bisogna capire se è affiliato all'ISIS questo killer oppure no, se è uno psicopatico, se uno che ha avuto, diciamo così, il contagio, come è possibile fra molti, purtroppo. Ne parleremo a breve. Intanto ancora i vostri messaggi, sia al 349-238-6666, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire in qualsiasi momento senza indugio. La domanda che vi ponevo questa sera a proposito di quest'altra terribile strage, la più grave tra l'altro negli Stati Uniti, dovuta a un attacco con armi da fuoco, vi chiedevo se secondo voi dopo questo, e si riapre di nuovo la polemica sull'acquisto troppo facile delle armi negli Stati Uniti, se è il caso di dare un giro di vite come Obama sta chiedendo da più tempo, oppure come dice Trump, dichiarato anche questa sera, bisogna dare agli americani gli strumenti per difendersi. Che cosa ne pensate? Per esempio Marco scrive: gli americani sono talmente ignoranti da votare un soggetto che tuttora insiste a reclamare un diritto alla difesa che è smentita dai fatti. Le armi, dice, le hanno quelli che fanno stragi e gli illusi che sperano di averle quando dovessero difendersi. Non è mai successo che ci fosse un Chuck Norris, quando un personaggio da TV, quando e dove serviva. Quindi ragionamenti assurdi e privi di logica, dice quelli di Trump. Carla da Roma: penso che i terroristi sono persone depresse gravi, e si diventa di una cattiveria inimmaginabile e si desidera solo morire. Questa è la lettura psicologica di Carla. Poi altri messaggi. Dice Francesco: penso che la soluzione sia costruire molte moschee con a capo persone qualificate. Queste stragi nascono dall'ignoranza di chi si improvvisa predicatore. Allora vi ricordo quali sono più in generale le notizie più importanti della giornata e poi cominciamo ad affrontarne una per una. Il killer indottrinato in America, indagini sul predicatore da cui sarebbe stato formato questo killer della strage di Orlando. Obama dice la sua è una fedeltà all'ISIS last minute, e poi c'è il giallo sul fuoco amico, chi davvero ha ucciso una parte almeno di queste 49 vittime. Poi dall'Asia all'Europa c'è lo spettro della Brexit, dell'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, che piega i mercati. Berlusconi, domani ci sarà l'intervento al cuore, grazie dell'affetto, dice il PD, ripensa intanto all'Italicum, ma la possibile modifica è senza maggioranza. Poi Marsiglia, sotto accusa 150 russi, appello ai tifosi inglesi per Euro 2016, qui si parla dei vari scontri, intanto è in corso sempre la partita d'esordio dell'Italia contro il Belgio, per il momento va avanti 0-0. Omicidio di Melania, la Cassazione conferma 20 anni di carcere per Parolise, la sentenza definitiva. E poi Microsoft compra LinkedIn per 26 miliardi di dollari, e in più è stata violata la prima legge della robotica, che prevederebbe che un automa non può ferire gli esseri umani, invece è il primo caso questo, ma ne parleremo più tardi. Quindi dicevamo, la strage in Florida, Orlando, dove sono morte 49 persone più il killer e 53 sono rimaste ferite. Il più grave, vi dicevo, la più grave strage avvenuta in America con armi da fuoco. Il killer è stato ucciso dalla polizia, era armato di un fucile d'assalto e ha freddato appunto 49 persone in questa discoteca gay del centro di Orlando. È un 29enne americano, si chiama Omar Martin, di origini afghane, e era noto all'FBI, avrebbe chiamato anche tra l'altro la polizia prima della strage dichiarando la sua fedeltà all'ISIS. Era un seguace, fra l'altro, di Marcus Dwayne Robertson, 47 anni, un imam che predicava l'odio contro i gay, ma in attesa dell'esito delle indagini su quale possa essere effettivamente la matrice di questo massacro, era un affiliato all'ISIS, non lo era, insomma, pullulano intanto sui social media in lingua araba rivendicazioni, messaggi di giubilo, nuove minacce anche all'Italia, per esempio citando più volte il Colosseo e la Torre di Pisa. Però questa rivendicazione della strage da parte di una fonte dell'ISIS questa volta appare piuttosto anomala. Ma per capire meglio quali sono gli sviluppi dell'indagine, indagini, c'è Marco Valsania, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Marco. Buongiorno, buonasera. Quindi poi si parla anche di questo giallo del fuoco amico, a parte appunto per quanto riguarda la matrice islamica, per capirlo definitivamente, le indagini ancora, diciamo, non sono proprio in alto mare, però insomma procedono. E che cos'è questa storia del fuoco amico, Marco? Ma sì, come dicevi tu, le indagini procedono più lentamente sicuramente delle polemiche politiche. Come dicevi tu, c'è ancora molto da ricostruire proprio per la gravità della strage, come ricordavi il bilancio appunto di 49 morti uccisi, diciamo, a parte l'attentatore, e di oltre 50 feriti. Ci sono anche ipotesi che nel momento, diciamo, di clou della crisi, l'irruzione delle forze dell'ordine, che hanno usato comunque esplosivi per aprire un ingresso, diciamo, e neutralizzare l'attentatore, ecco, che possano esserci anche stati forse episodi di fuoco amico, ma al momento questo sono ancora illazioni, ecco, nelle ricostruzioni ufficiali al momento l'attentatore è considerato responsabile dell'uccisione delle 49 vittime nella discoteca gay, tutte uccise da una sola arma, in realtà da una versione dell'M16, fucile in dotazione all'esercito, che oggi può essere venduto, fucile d'assalto che oggi viene venduto regolarmente, infatti era stato acquistato regolarmente da Matin pochi giorni prima della strage. Questa, diciamo, come ricordavi, un ulteriore elemento di controversia politica accanto alla lotta al terrorismo, ai lone wolf, ai lupi solitari, come sembra essere Matin, come Obama ha definito Matin, ma anche la lotta per un maggior controllo delle armi più letali. Marco, fra l'altro, appunto, adesso c'è la polemica di cui parleremo tra poco con un analista esperto di geopolitica tra Trump e Clinton, no? Tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, con Trump che leggevo appunto la dichiarazione di poco fa che ha detto bisogna dare agli americani le armi, gli strumenti per difendersi, anche se qualcuno, qualche ascoltatore dice in realtà quello, il killer, non se ne andava in giro con la pistola per difendersi, ma proprio per entrare in una discoteca e fare questa strage. Certo, sì, la polemica, una delle due polemiche politiche è questa, è quella Trump rilancia, diciamo, come ha rilanciato oggi, la sua, diciamo, teoria, le sue proposte, che sono da un lato quelle di mettere al bando i musulmani da qualunque ingresso negli Stati Uniti, nonostante, ecco, in questo caso, come molto spesso, l'attentatore fosse un cittadino americano nato negli Stati Uniti, appunto figlio di immigrati afghani, ma nato e cresciuto negli Stati Uniti. E l'altro fronte è quello della diffusione delle armi, ecco, la teoria di Trump e diciamo della gun lobby, della lobby degli armamenti, della National Rifle Association, e che in realtà bisognerebbe semmai dare più armi in mano ai cittadini rispettosi delle leggi, e che questo in qualche modo miracolosamente non genererebbe ulteriori massacri insensati, ma invece delle specie di sfide all'ok corrali in cui i giusti vincono e ammazzano i cattivi, diciamo una teoria che quantomeno così facile e discutibile. Grazie al nostro Marco Valsani da New York. Ciao Marco. Arrivederci a voi. Ciao. Adesso invece vorrei coinvolgere Vittorio Emanuele Parsi, che è esperto di geopolitica e docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Buonasera Vittorio Emanuele, bentornato. Buonasera. Quindi sentivi di questa polemica sulla quale magari torneremo dopo, però certamente al di là che ancora si debba chiarire la matrice di questo attacco terroristico, questa vicenda ha riproposto in Occidente il rischio di una possibile azione appunto di matrice jihadista di singoli individui radicalizzati, che è la più pericolosa, no? Questa del possibile contagio, che può essere un essere umano di questo tipo contagiato dalla radicalizzazione jihadista, islamista, può essere anche quello della porta accanto, per dire, adesso al di là, senza fare terrore, però no? E questo è il vero rischio dei lupi solitari. È così, e soprattutto accanto al rischio appunto che chiunque possa radicalizzarsi, in potenza perlomeno, c'è anche il fatto che chi si radicalizza ha l'imbarazzo della scelta negli obiettivi, perché all'interno della predicazione dell'Islam radicale i bersagli possibili vanno appunto dagli omosessuali alle adultere, a quelli che lottano contro il terrorismo, a quant'altro, per cui questo è un po' il vero problema. Quando infatti sentiamo oggi la distinzione un crimine legato all'omofobia e un crimine legato all'islamismo radicale, gli islamisti radicali sono omofobi. Ah, terribilmente, non è terribilmente, una distinzione, no? Così. Anche nei filmati dell'ISIS. Si può essere omofobi anche senza essere radicali, mancherebbe altro. Certo, sarebbe meglio non esserlo naturalmente, però ecco, abbiamo visto anche vari filmati dell'ISIS con persone accusate, come se fosse una cosa, di essere gay, quindi buttate anche dai punti più alti di palazzi, di rocce, no? E poi lapidati se sopravvivevano a queste delle cose orribili. In Arabia Saudita, in Iran, in Pakistan, cioè, certo. In Pakistan l'omosessualità è un reato, vi ricorderete che qualche anno fa un leader politico riformista indonesiano, appena uscito, quando l'Indonesia stava uscendo dalla dittatura militare, venne fatto fuori politicamente con l'accusa di sodomia. Quindi il background è questo in quasi tutti i paesi musulmani. Senti, Vittorio Emanuele Parsi, allora, a parte questo ascoltatore che scrive: sono stato in America e sono rimasto allibito, fanno mercatini all'aperto con armi anche da guerra, realizzano milioni di dollari nel weekend. Ho conosciuto uno che girava con bombe a mano in auto. Sono pazzi, quindi questa facilità. Secondo te servirebbe una stretta, la battaglia che Obama conduce da un po' su questo troppo facile accesso alle armi da parte dei cittadini? Dal mio punto di vista sì, perché anche mia nonna buonanima sarebbe in grado di fare una strage avendo un fucile automatico che pesa 2,5 kg, che non ha rinculo, che spara 100-120 colpi al minuto. E dopodiché però al di là degli ignoranti, pazzi eccetera, perché poi quando gli altri fanno delle cose è sempre facile stigmatizzare, no? nella cultura, nella tradizione della cultura politica americana, il diritto di portare le armi affonda nella lotta contro gli inglesi, contro il governo, la possibilità che il governo diventasse tirannico, è un pezzo costitutivo di quella cultura politica. Molto lentamente si potrà arrivare a eliminarlo. Ci sono cose in cui che dobbiamo ragionare guardandole con gli occhi di molti americani. È importante che anche negli Stati Uniti stia crescendo il numero di quelli che ritengono questo punto della loro cultura fosse da cambiare. Vittorio Emanuele, fermati un attimo, resta con noi, perché vedo che l'Italia, c'era un'esultazione, credo di aver sentito anche dalla Francia l'urlo di Dario Ricci. Dario? Sì, l'urlo di esultanza, direi al 33esimo di gioco l'Italia è in vantaggio, c'è stato il lancio da centrocampo di De Rossi, difesa belga in bambola, si è infilato Giaccherini che ha controllato il pallone con un morbido destro, ha battuto Courtois in uscita. Italia in vantaggio per 1-0, un'Italia finora molto accorta, attenta a chiudere gli attacchi, in realtà non troppo dementi dei belgi, bravissimi gli azzurri a sfruttare la prima occasione che la incerottata difesa belga ha regalato a Giaccherini, Emanuele Giaccherini, che non ha sbagliato di fronte a Courtois. 34esimo di gioco a Lione, Italia 1, Belgio 0. Grazie Dario Ricci dalla Francia. Non so se tu, Vittorio Emanuele Parsi, ti sto sottraendo alla partita, non lo so, però. No, guarda, a me proprio non me ne potrebbe fregare. Sei un rugbista tu. Non mi piace. Un rugbista di quelli duri, Vittorio Emanuele Parsi. Senti, un'ultima cosa. Un editoriale del New York Times firmato da Roger Cohen scrive: l'attentatore di Orlando non ha fatto altro che accompagnare Trump con questa strage, Trump alla Casa Bianca, ha aiutato la Gran Bretagna a uscire dall'Europa e Marine Le Pen a diventare presidente francese. Quindi dice ha prestato il fianco agli attacchi contro l'Islam, pregiudizi eccetera, in questo modo Trump vincerà. Cohen è sempre molto tagliente nei suoi editoriali. Però è chiaro che una cosa di questo genere si presta agli argomenti di Trump. Oggi Trump ha avuto gioco facile nel dire: troppa gente entra da paesi come l'Arabia Saudita, tutta la penisola arabica in generale, dall'11 settembre, scusi dire, da prima quindi di questi ultimi anni, dall'Afghanistan, dal Pakistan, con estrema facilità. Noi non sappiamo chi sono e vengono da paesi, da culture, non tutti chiaramente, sì, mancherebbe che neanche Trump arriva a dire questo, ma vengono da aree in cui è più diffuso l'odio per gli Stati Uniti, l'odio per i nostri valori, certi pregiudizi, eccetera, eccetera. Questo gli fa gioco. È ovvio che chiaramente non dobbiamo mai dimenticare che, attenzione, l'omofobia e l'ignoranza sono diffuse un po' dappertutto, ma quello che cambia è che in Occidente non esistono stati che condannano a morte o a lunghe pene di tiro gli omosessuali. La cultura russa marcia di Putin è molto aggressiva verso gli omosessuali. Sì, anche se ha fatto le condoglianze a Obama oggi. Certo, infatti, non esistono leggi che puniscono l'omosessualità in quanto tale. Neanche nella Russia del super macho Putin. E purtroppo invece in gran parte del mondo che fuori dall'Occidente questo è vero. Quindi questo fa gioco a Trump, è ovvio. Grazie Vittorio Emanuele Parsi e buona serata. Ciao Vittorio Emanuele. Ciao, grazie. Mi scrive un ascoltatore: non ti ricoglionire anche tu col calcio. Non mi ricoglionisco, semplicemente, siccome anche questa è tra le notizie principali, c'è anche la partita della nazionale italiana maschile e quindi ne diamo doverosamente notizia, no? Poi Alessandro scrive: è brutto e cinico a dirsi, ma quando le armi saranno dichiarate fuori legge, solo i fuori legge avranno le armi. Il problema è culturale. Questa è la lettura di Alessandro. Continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Sarebbe giusto dare un giro di vite all'accessibilità delle armi troppo facile negli Stati Uniti, oppure non è quello il problema, dice anzi Trump, bisogna dare agli americani gli strumenti per difendersi. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto e anche, se permettete, con la giusta conduttrice. Adesso vi ricorderò tra pochissimo di nuovo le notizie più importanti e poi passeremo a un altro argomento. Mentre l'Italia, vi dico subito, è in vantaggio per 1-0 sul Belgio in questo esordio a Euro 2016. I vostri messaggi: se è giusto dare una stretta alle armi, all'accessibilità delle armi negli Stati Uniti, oppure, come dice Trump, bisogna dare ai cittadini la possibilità di difendersi. Scrivete alla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-666. 3466. Vendere armi automatiche a civili è assurdo, dice Marco. A cosa può servire un'arma d'assalto, un'arma d'attacco e non da difesa, un'arma fatta per uccidere il maggior numero di persone nel minor tempo possibile solo per fare massacri, dice Marco. Mentre un altro ascoltatore dice: ha ragione Trump, dal punto di vista generale si può discutere sulla vendita di armi completamente automatiche, spero che anche in Italia si possa arrivare a un diritto di difendersi anche con le armi da fuoco, scrive. Adesso i titoli principali. La strage di Orlando, secondo il presidente americano Obama, è frutto di estremismo interno, giallo sul fuoco amico. Brexit e le piazze europee scontano ancora i timori per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Oggi un'altra seduta in calo, intanto i britannici anti-Europa nei sondaggi passano in vantaggio, si vota il 23 giugno. Consob botta e risposta tra Calenda e Vegas, errori gravi, dice il ministro, pressioni dal governo, risponde il presidente. E poi l'omicidio di Belania, la Cassazione conferma i 20 anni di carcere per Parolisi. Tecnologia, polemica sul primo robot in grado di ferire gli esseri umani e Microsoft che acquista LinkedIn. E di questi ultimi due argomenti parliamo con il nostro Enrico Pagliarini, che naturalmente conoscete soprattutto per il suo programma 2024, tutti i venerdì subito dopo Effetto Notte. Qualche problema di audio, ci risiamo. Enrico, sei tecnologico, hai schiacciato qualcosa di strano. Enrico, da te non me l'aspettavo. Comunque, vabbè, perdonate, lo vedo, no? Un po' nel suo mondo. Mi avete messo nel posto sbagliato, allora posto io qua sbagliato. Ho dei bottoni che non capisco. Al momento sbagliato. Senti, però tu ci devi parlare del robot. Forse allora, pensavi appunto a questo robot che può ferire gli esseri umani. È stata la prima volta che è stato costruito un robot che viola questa regola. Un robot non dovrebbe mai, no, danneggiare. Allora, se uno è un po' appassionato di robot, sa che esistono tre leggi della robotica. La prima dice che un robot non può recar danno ad un umano. Già ce le richiamo tra noi, ci mancherebbe che anche ci mancherebbe un robot, sì. No? Però attenzione, queste leggi sono state scritte quasi 100 anni fa, quindi le cose sono un po' cambiate. Da Asimov, lo scrittore, esatto. Appassionato di questi argomenti. Seconda legge, un robot deve obbedire agli ordini dell'essere umano, a meno che non contrastino con la prima legge. Quindi, quella di ferire o danneggiare un altro essere umano. Terza legge, un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa non contrasti con la prima e la seconda. Senti, a costruirlo un ingegnere dell'Università di Berkeley, sì, allora, no? In realtà non possiamo definirlo un vero e proprio robot, è una sorta di provocazione. Allora, da molto tempo, un paio di anni fa, ci sono stati un gruppo di scienziati, si erano ritrovati ad una conferenza in Centro America e avevano fatto un appello alle Nazioni Unite, a tutti gli stati del mondo, per porre attenzione sulle conseguenze della evoluzione dell'intelligenza artificiale, e intelligenza artificiale e robotica vanno a braccetto. Avevano detto: attenzione, perché soprattutto in ambito militare o comunque soprattutto dove si può far male all'uomo, l'intelligenza artificiale potrebbe avere delle derive che potrebbero andare fuori controllo. Quell'appello mi risulta che sia andato inascoltato. E questo scienziato, che si chiama Alexander Reben, appunto dell'Università di Berkeley negli Stati Uniti, ha costruito questo robot che è una sorta di provocazione. Un robot, tu metti un dito sopra ad una piccola piattaforma e questo robot decide da solo se farti del male, cioè pungerti, non è che ti taglia un dito, no? Se pungerti o no, ti fa una piccola ferita, no? Niente di, cioè, ti uscirà un po' di sangue. Però è una provocazione per dire: oh ragazzi, attenzione, si può superare il limite perché facilmente. Si può superare il limite, ma sicuramente verrà superato il limite, anche perché fra qualche anno, quando i sistemi di intelligenza artificiale saranno molto sofisticati, cominceranno anche ad abbassarsi di prezzo. Possiamo immaginare peggiore degli incubi, insomma, a questo punto. Beh, ma... no? Qualsiasi sceneggiatura di film sarà superata in questo senso. Senti, invece Microsoft ha superato se stesso, cosa ha fatto? Allora, Microsoft, qua tutt'altro argomento. Microsoft ha, nel corso della sua storia, ha fatto 196 acquisizioni, ha comprato aziende. Microsoft è un'azienda che fattura molto, guadagna molti soldi, ha degli utili molto interessanti, quindi ha soldi per comprare cose interessanti sul mercato. Si è comprato? Allora, si è comprata per 26 miliardi, quindi mica poco. LinkedIn è una sorta di social network molto utilizzato da chi cerca lavoro, soprattutto negli Stati Uniti, un po' meno in Europa, o meglio, forse un po' meno efficace qui da noi, ma in realtà poi viene utilizzato anche da noi, soprattutto da chi è un professionista del settore. Cioè, se tu devi cercare una persona con un certo profilo, LinkedIn ha una banca dati così vasta, parliamo di più di 400 milioni di persone. Con vari profili, identikit che ti fanno trovare magari la persona. Esattamente, esattamente. Quindi l'idea di Microsoft è mettere assieme tutti i prodotti software di Microsoft con questo database, con questi profili di persone in tutto il mondo. E diventare sempre più potente, naturalmente. Sì. Grazie Enrico Pagliarini, lo ritroviamo venerdì e dopo Effetto Notte. Ciao Enrico, di abilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che Roberto Giordano vi ricorda in pochissimo tempo, visto che abbiamo ancora altri argomenti. La strage di Orlando, secondo il presidente americano Obama, è frutto di estremismo interno. E poi Brexit e le piazze europee scontano ancora i timori per la possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Oggi un'altra seduta in calo. E poi l'omicidio di Melania alla Cassazione conferma i 20 anni di carcere per Parolisi. Calcio, Euro 2016, la Spagna batte la Repubblica Ceca 1-0, Irlanda-Svezia finisce 1-1, mentre l'Italia per il momento conduce per 1-0 sul Belgio. Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome: Antonio. Cognome: Tajani. Età: 62. Nato a Roma. Eletto in Italia centrale, Lazio, Umbria, Marche e Toscana. Con quanti voti? Più di 110.000 preferenze. Partito politico: Forza Italia. Gruppo politico: Partito Popolare Europeo. Segni particolari: capelli grigi, quasi bianchi. Quante lingue parla? Italiano, inglese, francese e spagnolo. Competenze europee in 10 parole. Conosco la Commissione europea per essere stato vicepresidente per 7 anni, conosco il Parlamento europeo per esserci stato per 15 anni e di fatto Bruxelles e Strasburgo sono la mia seconda residenza. Benvenuto nella Newsroom di Radio 24 da Silvia Bernardi. Rischio Brexit in rialzo. UE migliore senza Londra? No, l'Unione è peggiore senza Londra. Noi abbiamo bisogno della Gran Bretagna, un paese troppo importante per noi. Londra migliore senza Unione Europea? Assolutamente no, perderebbe grandi opportunità economiche, sarebbe per la sua politica finanziaria un disastro. L'Unione Europea e gli euroscettici? Gli euroscettici hanno messo in risalto gli errori di un'Europa che va cambiata. Loro non hanno soluzioni, ma bisogna trovarle le soluzioni. Uscire dalla crisi, vincere la partita contro il terrorismo e risolvere la questione dell'immigrazione clandestina. La politica europea e lo spazio industriale. Quando ero commissario all'industria ero riuscito a fissare un obiettivo, il 20% del prodotto interno lordo prima del 2020 proveniente dal manifatturiero. Mi auguro che si vada avanti lungo questa strada. Senza industria non c'è lavoro. Perché si è candidato? Per difendere i valori nei quali credo. La sua battaglia vinta? Quella che mi ha dato più soddisfazione è aver salvato una fabbrica in Spagna, a Gijón, che doveva chiudere. Una multinazionale americana aveva deciso di mandare tutti a casa, sono riuscito a convincerli, ora questa fabbrica continua a lavorare, più di 200 operai sorridono e con loro sorridono le loro famiglie. Per questo mi hanno dedicato una strada in quella città. La sua battaglia persa? A Bruxelles non tante, forse non essere riuscito a dare più flessibilità e dare una banca centrale che assomigli sempre di più alla Federal Reserve, ma sono battaglie molto importanti. In Italia non essere riuscito a diventare sindaco di Roma quando mi sono candidato, sono arrivato vicino ma non ci sono riuscito. Un sogno nel cassetto? A vedere un'Europa politica che si occupi dei grandi problemi e lasci perdere le piccole cose. Chissà se ce la farò. Newsroom, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Ridirezioniamoci verso la Francia, dove c'è sempre il nostro Dario Ricci. Dovrebbe essere finito il primo tempo di Italia-Belgio, non è vero Dario? Sì, eccoci qua sempre da Lione, 1-0 in vantaggio gli azzurri grazie alla rete di Emanuele Giaccherini. Al 32esimo c'è stato il lancio dalle retrovie di Bonucci, non di De Rossi come avevo erroneamente detto in precedenza, Bonucci, Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus, che ha sorpreso i suoi tirimpettai belgi. Bravo Giaccherini a farsi trovare puntuale all'appuntamento col pallone e a freddare Courtois con un morbido destro in diagonale. Un'Italia accorta ma non dimessa, Roberta, attenta a non lasciare spazio ai talenti belgi che davanti possono far male. Finora Buffon ha corso un solo pericolo, un tiro da lontano al decimo di Nainggolan, sul quale è stato bravo a deviare il calcio d'angolo il numero uno azzurro, e poi una buona Italia che, anzi, peccato che ha mancato l'occasione del raddoppio con un colpo di testa di Pellè finito al lato davvero di pochissimo, e ha anche sbagliato qualche passaggio di troppo che avrebbe creato sicuramente qualche problema in più, ancora qualche problema in più ai diavoli rossi. Insomma, una buona Italia in vantaggio alla fine del primo tempo per 1-0 sul Belgio qui a Lione. A Lione decide finora la rete di Giaccherini al 32esimo. Grazie caro Dario Ricci da Lione, vedremo come prosegue, insomma speriamo bene. Intanto ancora c'è il tempo per qualche vostro messaggio. Clotilde dice: giusto per capire, se ognuno dei partecipanti alla festa lì a Orlando fosse stato armato, si sarebbero salvati? Giusto Trump e quelli esaltati come lui, può pensare. Scrive Clotilde. Poi Diego da Roma: gli americani hanno già la possibilità di difendersi, ma in genere non vanno sempre in giro armati per scelta. Trump che vuole fare l'obbligo a girare armati. E poi Luca da Milano che scrive: Obama dovrebbe pensare a questa follia inventata a Berkeley, parlavamo del robot che può ferire gli esseri umani, piuttosto che limitare la libertà di acquisto di armi da fuoco. Questa dei robot è una notizia veramente inquietante, scrive Luca da Milano. Poi ci sono tanti vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche sempre al 349-238-6666, però mi fanno capire che è il momento di rilasciarci. Poi ci risentiamo giusto per gli aggiornamenti alle 22.